but worries all lay me. Tell me once again, O friends and lovers gone, I have seen. Quarta ed ultima parte di Rock Legends, continuiamo ad ascoltare i brani del disco dei Metodica, Searching for Reflections. Come si chiamava questa canzone? Questa canzone si intitolava Heavenland e non è cantata da me, come avrete potuto sentire, ma è cantata da Angela Merlin, una cantante bravissima. Di Cerea. Ciao Angela, saluti, grandissima Angela, che abbiamo ingaggiato come ospite speciale per cantare nel nostro disco questo brano, che è stato scritto appositamente per lei da Moreno Piccoli, fratello del nostro batterista, che non solo ha composto la parte musicale del brano, ma anche si sentivano le sonorità abbastanza differenti dagli altri pezzi. Sì, un pezzo che è molto diverso da tutto il resto del lavoro, però abbiamo voluto metterlo dentro perché ci piaceva molto lei come cantante, anche come tipo di brano, che proprio fa da introduzione al brano che verrà dopo, che ascoltiamo dopo. Dopo l'uscita di questo disco, quali sono gli impegni che attendono la vostra band per il futuro? Beh, per il futuro immediato abbiamo qualche concerto tipo al blocco Music Hall di San Giovanni Lupatoto il 18 di dicembre, e poi stiamo organizzando una bella presentazione del disco a San Martino Buonalbergo in teatro, questo sarà per gennaio però non prima. E comunque la promozione in generale del CD sono i nostri prossimi passi. Sì, recensioni, magari se riusciamo qualche altra intervista e qualche altro concerto che stiamo cercando di organizzare. Stiamo pensando anche per un videoclip, una cosa alla volta. Cosa alla volta, che poi arriva tutto insieme, perché dobbiamo fare un po' di cose. Bisogna comunque sempre autofinanziarci, purtroppo. Sì. Ma tanto paga il Max. Ecco, mi ha detto. È la regola che ci è andata negli ultimi paio d'anni. Tanto paga il Max. Poi esatto. Appunto, poi. Prossimo brano. Allora, il prossimo brano si intitola The Marble Column. È il brano con cui chiudiamo i concerti. E ascoltandolo vi renderete conto perché chiudiamo i concerti con questo brano. See the fallen bones, all the people stare, and eagles flying, but how long? Come see the fallen bones. It feels like when you watch TV, sparkles and fireworks out of reach, right behind the hills, they tell you that this had to be. They did the same to me. Tonight, treasures beyond the hills. Tonight, treasures beyond the hills. Yeah. Noi ragazzi siamo addirittura d'arrivo, a voi ricordo i contatti per richiedere le vostre rock legends preferite, per le vostre segnalazioni, scrivete l'indirizzo email a jeanluc76m@yahoo.it. Ricordo il sito www.radiorcs.it per info su Radio RCS e su Rock Legends. Un grazie a Metodica per la partecipazione e un augurio di pronto ritorno per il futuro. A voi la parola per i contatti web ed email per info sul CD ed un calendario live di prossima programmazione. Allora, per avere tutte le notizie su di noi, sui prossimi concerti, sulle attività musicali, sulle recensioni del disco, sulle prossime interviste o qualsiasi altra cosa che ci riguarda, andate su www.myspace.com/metodicaband. Vi invito anche a visitare il sito della nostra etichetta discografica www.undergroundsymphony.it, dove potrete acquistare, se volete, anche il nostro CD e vedere tutti i prodotti, tutti i CD pubblicati dalla nostra etichetta discografica. Per scriverci potete farlo all'email metodicaband@gmail.com. Brano di chiusura di questa puntata? Il brano di chiusura di questa puntata si intitola Nail in My Hand. Gianluca e Metodica vi salutano, noi ci risentiamo venerdì prossimo quando avremo ospiti Creamy Mammy, giovani indie punk band veronese che presenterà il primo EP. Ciao! Oh, ciao! Ciao a tutti! I try so hard to get out. Still with the reach of your clutch, you're stuck between my ribs and other reach my touch.